sono sempre accollato un inferno di lavori. Ho sempre dato il massimo per il minimo. Lavori mal retribuiti, lavori a progetto. E una volta che il progetto era finito, non avevo più niente da fare. Ho fatto proprio di tutto. L'aiuto pizzaiolo, la calappia lucertole, il dissuasore mobile, l'infermiero, l'aiutante scommettitore, il testatore d'alito, l'ammazzacani, il venditore ambulante di patate fritte, lo spacciatore di paraffina, la testa martello, il finanziere creativo, il muratore notturno, l'apprendista appendi abiti, il posacenere con le mani, il ladro di portuale, il bevitore di detersivo, l'aspirante pensatore portuale, il fratello degli animali. Insomma, tutti i lavori da supino, a cui non si applica per niente lo statuto dei lavoratori. Ma che dobbiamo fare? Che minchia? Lavoro non ce n'è. Lavoro non ce n'è. Minchia, lavoro non ce n'è.